Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Siamo qui con Filippo, il frontman, possiamo dire. Sì, il cantante. Sei il cantante, dai, è meglio. Il cantante della band marchigiana I Sargano. Ciao Filippo, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti e grazie per lo spazio, per l'opportunità. Intanto voglio chiederti chi sono i Sargano. Allora, i Sargano sono un gruppo che ha le sue radici a San Benedetto del Tronto, anche se nel corso degli anni si è trasferito a Milano, tranne me. È formato da quattro persone: Anselmo, il batterista, Mattia, il tastierista, e Francesco, il bassista. E poi ci sono io, appunto, che sono chitarra a voce. È un gruppo che è stato fondato nel 2014, abbiamo fatto appunto le prime esperienze in zona San Benedetto, Marche, anche soprattutto direi a livello di concerti. Poi abbiamo fatto un paio di lavori discografici, ma solo con quest'ultimo che ci siamo decisi a fare qualcosa di un pochettino più strutturato, impegnativo. E infatti sono proprio curiosa di questo. Il vostro nuovo EP è uscito qualche giorno fa e si chiama Crepe. Crepe è ispirato a un libro che ho letto qualche anno fa che si chiama Le cinque ferite dell'anima. Non a caso, appunto, ci sono cinque canzoni dedicate ciascuna ad ogni ferita dell'anima, che sono l'umiliazione, il tradimento, il rifiuto, l'ingiustizia e l'abbandono. Sono tutte cose, insomma, abbastanza profonde, temi abbastanza strong, però diciamo che li affrontiamo con un piglio decisamente rock. È nata come un EP, è voluto come un EP. Crepe viene da sé il nome perché è riferito alle ferite di un tronco, perché Sargano, non te l'ho detto prima, ma è una varietà di ulivo che cresce proprio nel sud delle Marche. Autoctono, come voi. Qual è la traccia a cui sei più affezionato? Malaspina, perché parla di una storia d'amore, la mia vissuta in maniera molto molto intensa, ma non c'è solo quello. Malaspina, che tra l'altro come ferita rappresenta l'abbandono, ed è proprio grazie a questa canzone, grazie a questo libro, che ho capito la differenza tra l'abbandono e il rifiuto, tra il non potere e il non volere stare con qualcuno, che è una cosa fondamentale per andare oltre e per amarsi davvero. Per quanto riguarda invece i riferimenti musicali, che riferimenti avete come band e quali sono invece i tuoi personali che cerchi di mettere nelle canzoni? Beh, sicuramente, guarda, come band ci ispirano i Verdena, oppure per andare oltre i confini nazionali, gli Idols. Invece, per quanto riguarda i miei gusti personali, oltre ai Verdena, ci sono sicuramente gli After Hours, ma direi anche un cantautorato come quello di Molteni, piuttosto che altri cantautori dei primi anni 2000, ai quali sono davvero affezionato e ai quali devo tantissimo. Per quanto riguarda invece dei live, avete in programma qualche concerto? Sì, tra l'altro venerdì, quindi il 12, suoniamo proprio a Milano, all'Ostello Bello, e sarà la nostra prima ufficiale con la nuova formazione, perché non te l'ho detto inizialmente, ma avevamo un bassista, Mirko, che per motivi personali, insomma, è rimasto a San Benedetto e non può fare la spola come faccio io tra San Benedetto e Milano, e quindi avremo questo primo live con la nuova formazione. Successivamente, quest'estate, ne stiamo preparando altri, sicuramente toccheremo altre città, ma proprio 100% invece suoneremo nelle nostre zone. Spero di venire a Bologna, tra l'altro, stiamo organizzando, spero di venire a Bologna. Speriamo di sentirvi live a Bologna, noi vi aspettiamo. Grazie mille Filippo per essere stato con noi e averci tenuto compagnia. Noi adesso vi lasciamo una traccia dei Sargano da ascoltare e ancora grazie Filippo per la bella chiacchierata. Grazie a te e grazie a tutti quanti, grazie.